stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so non esistono più. Con te io li vivrò. Quando sei lontana sogno all'orizzonte e mancano le parole. E io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Sei qui con me, con me, con me, con me. Con te partirò. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò.